Quanto e come si riproponeva di pagare per questa sua residenza in campagna? In base al prospetto delle società mutue edilizie per stranieri industriosi acclimatate e nazionalizzati, sovvenzionate dallo Stato, costituita nel 1874, un massimo di 60 sterline all'anno, che rappresentava un sesto di reddito assicurato, derivante da titoli statali, cioè l'interesse semplice al 5% di un capitale di 1200 sterline, prezzo d'acquisto pagabile in 20 anni, un terzo del quale da versarsi all'atto dell'acquisto, e la differenza, sotto forma di canone annuo, cioè 800 sterline più 2,5% di interesse sullo stesso, pagabile a scadenze trimestrali in versamenti annuali uguali fino all'estinzione per ammortamento di un prestito fatto a scopo d'acquisto entro un periodo di 20 anni, ammontante a un canone annuale di 64 sterline, incluso l'affitto, restando i titoli di proprietà in possesso del prestatore o dei prestatori, con una clausola cautelativa contemplante la vendita forzata, la ripresa in possesso e la compensazione mutua nel caso di inadempienza prolungata nel versamento delle quote stabilite, in ogni altro caso dovendo l'edificio e il terreno diventare proprietà piena e assoluta dell'occupante alla scadenza del periodo di stipulazione. Quali mezzi rapidi, ma insicuri di far fortuna, avrebbero facilitato un acquisto immediato? Un ufficio telegrafico privato che avrebbe trasmesso in codice Morse il risultato di un handicap equino e nazionale, in piano o ad ostacoli, di 1 o più miglia e ottavi di miglio, vinto da un outsider quotato a 50 contro 1 alle ore 3 e 8 pomeridiane ad Ascot, ora di Greenwich, giungendo il messaggio a Dublino, in modo da permettere di far scommesse alle 2:59 pomeridiane, ora di Dunsink. La scoperta in attesa di un oggetto di gran valore monetario, pietra preziosa, francobolli di valore gommati o stampigliati, 7 scellini color lilla, non dentellato, Amburgo 1866. 4 pence rosa, azzurro, con dentellatura, Gran Bretagna 1855. 1 franco, bluastro, ufficiale, perforato, stampigliatura diagonale, Lussemburgo 1878. Un anello dinastico antico, esemplare unico. Giacente in un ricettacolo insolito e ottenuto con mezzi insoliti. Dall'aria, lasciato cadere da un'aquila in volo. Dal fuoco, in mezzo ai resti carbonizzati di un edificio incendiatosi. In mare, in mezzo ai relitti galleggianti, gettati dalle navi, giacenti, abbandonati in fondo al mare. Sulla terra, nel gozzo di un volatile commestibile. La donazione da parte di un prigioniero spagnolo di un lontano tesoro di preziosi in specie o in lingotti, affidato 100 anni prima a una società bancaria di piena fiducia all'interesse composto del 5% del valore globale di 5 milioni, 5 milioni di lire sterline. Un contratto con un contraente sconsiderato per la consegna di 32 partite di una determinata merce in ragione di un pagamento in contanti alla consegna, per ogni consegna al tasso iniziale di 1/4 di penny in progressione geometrica crescente di 2. 1/4 di penny, mezzo penny, 1 penny, 2 pence, 4 pence, 8 pence, 1 scellino e 4 pence, 2 scellini, 8 pence, fino a 32 versamenti. Un progetto bene studiato in base al calcolo delle probabilità per far saltare il banco a Monte Carlo. Una soluzione del secolare problema della quadratura del circolo, premio governativo di 1 milione di lire sterline. Quale grande fortuna si poteva fare con imprese industriali? La bonifica di Dunham di terreno arido e sabbioso, suggerita nel prospetto di Hagen Dat Netheim, Bleibertreustrasse, Berlino W15, con coltivazione di piantagioni d'aranci e di meloni e rimboschimento. L'utilizzazione della carta straccia, delle pelli dei rosicanti delle fogne, degli escrementi umani forniti di proprietà chimiche in vista della vasta produzione della prima, del vasto numero dei secondi e dell'immensa quantità dei terzi, ogni essere umano normale di media vitalità e appetito producendo annualmente esclusi sottoprodotti liquidi, un totale di 80 libbre, regime misto carne o vegetariano, da moltiplicare per 4.386.035, popolazione totale d'Irlanda secondo i risultati del censimento del 1901. C'erano progetti di più ampio respiro, un progetto da formulare e sottoporre ai commissari portuali per lo sfruttamento del carbone bianco, forza idraulica, ottenuto da un impianto idroelettrico in funzione durante l'alta marea al molo di Dublino, o alle cascate di Pulafuca, o a Power Scouts, o ai bacini di sbarramento dei principali corsi d'acqua, per una produzione economica di 500.000 WHP di elettricità. Un progetto per chiudere con dighe il delta peninsulare del North Burl a Dolly Mount e costruire sul promontorio avanzato, utilizzato per campi da golf e poligoni di tiro, uno spiazzo asfaltato con casinò, baracconi, tiri a segno, alberghi, pensioni, sale di lettura, stabilimenti balneari per signore e signori. Un progetto per usare furgoni tirati da cani e capre per la consegna a domicilio del latte mattutino. Un progetto per lo sviluppo del turismo irlandese dentro e intorno a Dublino, mediante battelli fluviali con propulsione a motore a scoppio, al servizio del pubblico tra Island Bridge e Ringsend, omnibus scoperti, ferrovie locali a scartamento ridotto e battelli da turismo per la navigazione costiera. 10 scellini a testa al giorno, guida trilingue inclusa. Un progetto per il ripristino del traffico di merci e passeggeri sulle vie fluviali irlandesi, dopo aver ripulito i fondi dalle alghe. Un progetto per collegare con una linea tranviaria il mercato del bestiame, circonvallazione nord Prussia Street, con il lungo fiume Sheriff Street inferiore e East Wall, parallela alla linea ferroviaria di raccordo che va, in congiunzione con le linee ferroviarie Great Southern e Western, dal parco del bestiame Leafy Junction al capolinea della ferrovia Midland Great Western, numeri dal 43 al 45 di Northwall, in prossimità delle stazioni terminali o filiali di Dublino della Great Central Railway, della Midland Railway inglese, della società di navigazione Città di Dublino, della Lancashire e Yorkshire Railway Company, della compagnia di navigazione Dublino e Glasgow, della compagnia di navigazione Glasgow-Dublino-Londonderry, linea LED, della compagnia di navigazione anglo-irlandese, dei piroscafi Dublino-Morecambe, della London e North Western Railway Company, dei magazzini di scarico della Commissione Portuale di Dublino, dei magazzini di transito di Palgrave Murphy Company, armatori, rappresentanti per le linee del Mediterraneo, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio e Olanda, e per l'Associazione Assicuratori di Liverpool. Il costo del materiale rotabile acquistato per il trasporto degli animali, il chilometraggio di ferrovia aggiunto a carico della Dublin United Tramways Company, SRL, da coprirsi coi diritti di pascolo. Con quale protasi un contratto concluso per la realizzazione di questi progetti sarebbe divenuto apodosi naturale necessaria? Data una cauzione corrispondente alla somma richiesta, una sovvenzione per atto di donazione e titoli di trasferimento per tutta la vita del donatore o per lascito dopo l'indolore estinzione del donatore da parte di eminenti finanzieri Blum Pasha, Rothschild, Guggenheim, Hirsch, Montefiore, Morgan, Rockefeller, possessori di patrimoni di 6 cifre, ammassati durante una vita fortunata, e qualora si unisse al capitale l'occasione, la cosa desiderata sarebbe fatta. Quale risultanza lo avrebbe reso indipendente da tale ricchezza? L'indipendente scoperta del filone d'un inesauribile miniera d'oro. Per quale ragione meditava egli su progetti di così difficile realizzazione? Era uno dei suoi assiomi che simili meditazioni o relazioni automatiche a se stesso di narrazioni relative a se stesso o il tranquillo ricordo del passato, se abitualmente esercitato prima di ritirarsi per la notte, alleviassero la fatica e avessero come risultato un sano riposo e una rinnovata vitalità. La sua giustificazione? Come fisico aveva imparato che dei 70 anni di un'intera vita umana almeno 2/7, cioè 20 anni, trascorrevano nel sonno. Come filosofo sapeva che al termine di ogni vita a ciascuno assegnata, solo un'infinitesima parte dei desideri di ognuno viene a essere realizzata. Come fisiologo credeva nella possibilità di placare artificialmente gli agenti malefici che operano soprattutto durante la sonnolenza. Che cosa temeva? Di commettere omicidio o suicidio durante il sonno per una aberrazione della luce della ragione. L'incommensurabile intelligenza categorica sita nelle circonvoluzioni cerebrali. Quali erano abitualmente le sue meditazioni ultime? Su qualche cartellone, unico e solo nel suo genere, che facesse fermare la gente a bocca aperta. L'ultimo grido nel campo della pubblicità stradale, esclusi tutti gli aumenti estranei, ridotto ai suoi termini più semplici ed efficienti. Non eccedenti il normale raggio della visione casuale e adattato alla velocità della vita moderna. Che cosa conteneva il primo cassetto da lui aperto? Un quaderno di calligrafia Ware Foster, proprietà di Millicent Bloom, alcune pagine del quale portavano disegni diagrammatici con l'iscrizione Papalino, che mostravano una gran testa globulare con 5 peli ritti. Due occhi di profilo, il tronco visto di fronte con 3 grossi bottoni, un piede triangolare. Due fotografie sbiadite della regina Alessandra d'Inghilterra e di Maud Branscombe, attrice e bellezza alla moda. Una cartolina di Natale con una rappresentazione pittorica di una pianta parassita. La leggenda Mizpah, la data Natale 1892. Il nome dei mittenti, da parte signore e signora M. Comfort, i versetti. Possa questo Natale a voi portare pace, gioia e letizia al focolare. Un pezzetto di cera lacca rossa, in parte liquefatta, proveniente da Haley & C., SRL, 89, 90 e 91 Dame Street. Una scatola contenente il rimanente di una grossa di pennini dorati J, proveniente dallo stesso reparto della stessa ditta. Una vecchia clessidra capovolgibile contenente sabbia capovolgibile. Una profezia sigillata, mai dissigillata, scritta da Leopold Bloom nel 1886 riguardante le conseguenze dell'approvazione del progetto di legge sull'autonomia irlandese di William Ewart Gladstone. Del 1886, mai approvato. Un biglietto di pesca di beneficenza numero 2004, fiera di beneficenza di St. Kevin, prezzo 6 pence, 100 premi. Un'epistola infantile datata lunedì, L minuscola, che suonava P maiuscola, Papalino, virgola, C maiuscola, come stai? Punto interrogativo, I maiuscola. Io sto benissimo, punto e a capo, firma con svolazzi, M maiuscola, Millie, niente punto. Una spilla con cameo, proprietà di Ellen Bloom, nata Higgins, defunta. 3 lettere dattiloscritte, destinatario Henry Flower, fermo posta, ufficio postale Weston Row, mittente Martha Clifford, fermo posta, ufficio postale Dolphin's Barn. Il nome traslitterato e l'indirizzo della mittente delle 3 lettere in un crittogramma segreto alfabetico bustrofedontico punteggiato quadrilineare, soppresse le vocali. N.IGS.BW.I.UU.OX.BW.1. OKS.MH.Y.IM. Un ritaglio del periodico settimanale inglese Società Moderna, argomento il castigo corporale nelle scuole femminili. Un nastro rosa che aveva avvolto un uovo pasquale nell'anno 1899. Due preservativi con serbatoio di gomma, parzialmente srotolati, acquistati per posta, casella postale 32, ufficio postale Charing Cross, Londra, WC. Un pacco di una dozzina di buste color crema e di carta da lettere a rigatura leggera, filigranata, ora diminuita di 3. Alcune monete austro-ungariche assortite. 2 tagliandi della Reale Lotteria Ungherese autorizzata. Una lente con scarso potere di ingrandimento. 2 cartoline fotografiche che rappresentavano A. Il coito orale tra una signorita nuda, presentazione posteriore, posizione superiore, e un torero nudo, presentazione anteriore, posizione inferiore. B. Stupro anale da parte di un religioso maschio, completamente vestito, sguardo abbassato, di una religiosa femmina, parzialmente vestita, sguardo diretto, acquistate per posta, casella postale 32, ufficio postale Charing Cross, Londra, WC. Un ritaglio di giornale di una ricetta per rinnovare vecchie scarpe gialle. Un francobollo gommato da un penny, color lavanda, del tempo della regina Victoria. Una tabella di misure di Leopold Bloom compilata prima, durante e dopo 2 mesi di uso consecutivo del vogatore Sandow Whiteley per uomini 15 scellini, per atleti 20 scellini, e cioè petto 28 pollici e 29 pollici e mezzo, bicipite 9 pollici e 10 pollici, avambraccio 8 e mezzo e 9, coscia 10 e 12, polpaccio 11 e 12, un prospetto per il Tokasan, il più grande specifico del mondo per affezioni del retto, spedito direttamente da Tokasan Coventry House, South Place, Londra, EC, indirizzato erroneamente a Mrs. L. Bloom con bigliettino d'accompagnamento che iniziava erroneamente: Cara signora. Citare i termini testuali usati dal prospetto per esporre i vantaggi di tale rimedio taumaturgico. Cura e calma mentre voi dormite. In caso di difficile emissione di flatulenze e ventosità, assiste la natura in modo prodigioso, assicurando istantaneo sollievo con la scarica dei gas, la pulizia delle parti e la liberazione delle funzioni naturali. Un investimento iniziale di 7 scellini e 6 pence farà di voi un altro uomo. E la vita vi sembrerà degna d'essere vissuta. Le signore, soprattutto, trovano utile il toccasan, una piacevole sorpresa quando ne constatano il mirabile risultato pari a quello della frescura deliziosa dell'acqua di polla in una afosa giornata estiva. Raccomandatelo alle vostre amiche e amici, vi dura una vita intera. Introdurre dalla parte rotonda. Toccasan. C'erano referenze, numerose, di un ecclesiastico, un ufficiale della Marina Britannica, un noto scrittore, un uomo d'affari, un'infermiera, una signora, una madre di 5 figli, un mendicante distratto. Come concludeva la conclusiva referenza del mendicante distratto? Peccato che il governo non abbia fornito dei toccasan ai nostri uomini durante la campagna sudafricana. Quale sollievo sarebbe stato? Quale oggetto aggiunse Bloom a questa collezione di oggetti? Una quarta lettera dattiloscritta spedita a Henry Flower, supponiamo che HF stia per LB, da Martha Clifford, trovare MC. Quale piacevole riflessione accompagnò questa azione? La riflessione che, a parte la lettera in questione, il magnetismo del suo volto, della sua figura e del suo comportamento era stato favorevolmente accolto nel corso del giorno precedente da una moglie, Mrs. Josephine Breen, nata Josie Powell, un'infermiera, Miss Callan, nome di battesimo sconosciuto, una fanciulla, Gertrude, Gertie, cognome sconosciuto. Quale possibilità si presentava? La possibilità di esercitare un virile potere di attrazione in un non prossimo futuro dopo un pasto lussuoso in un separé, in compagnia di un'elegante cortigiana, di corporale bellezza, moderatamente mercenaria, variamente istruita, signora di nascita.